Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti. In regia abbiamo Filippa Oreggi, in redazione Laura Vanossi. Il nostro centralino è già a vostra disposizione. 824 0024. Ve lo dico in anticipo perché oggi abbiamo bisogno anche del vostro aiuto, del vostro contributo. Oggi parliamo, come anticipato ieri, di tumore al seno. Ciascuno di noi conosce direttamente o meno una storia di tumore al seno, è quasi inevitabile, no? Dato che in Italia le donne che hanno o hanno avuto un tumore della mammella sono circa 416.000. Da sole potrebbero popolare una città come Firenze o Bologna. Quindi siamo di fronte ad un problema dai grandi numeri e i dati, direi, non lasciano spazio a fraintendimenti. Ogni anno ci sono circa 37.000 nuovi casi. In altre parole, nessuna di noi, in nessun momento della sua vita, può mettersi di fronte allo specchio e dire non mi riguarda. Spesso il tumore si scopre per caso, un mattino facendo la doccia o ad una visita di controllo. Così un giorno qualunque diventa improvvisamente una data che non si scorderà più. Sentiamo. Avevo 35 anni quando un giorno ho scoperto di avere un tumore al seno. Al tatto avevo scoperto di avere un piccolo nodulino. E quindi facevo la mammografia ogni anno. Avevano visto una cosa, insomma, che andava sicuramente approfondita. E facevo ecografia e mammografia tutti gli anni perché avevo seno fibromastocistico. Ho cominciato a avere dei dolori al seno destro in alto e toccando si sentiva proprio un rigonfiamento. Solo che tutti mi dicevano: no, ma guarda, se ti fa male non è niente, perché di solito i tumori sono cose che non fanno male. Sento una fitta, proprio una fitta profonda, al che prendo coraggio e mi metto a fare l'autopalpazione. Come spiegano, non c'è voluto molto, l'ho sentito subito, era un nodino che si sentiva bene. Lo scopro semplicemente perché sento un dolore e sento un nodulo al seno. Ad agosto, al mare, mentre ero in spiaggia, seduta sul lettino, sistemandomi il costume, ho sentito un nodulo, il classico nodulo. Il nodulo me ne sono accorta io perché era proprio... Si vedeva proprio. Era già anche abbastanza grosso. Facendo la doccia una sera mi sono accorta di avere qualcosa sul lato sinistro del seno che mi dava come un fastidio sotto la pelle. Un nodulo, una fitta, un dolore oppure qualcosa di strano durante il controllo di routine. Questo raccontano le donne, sono tante perché il numero dei casi è in aumento. Per fortuna però c'è anche l'altro lato della medaglia. La lotta al tumore del seno ha scritto uno dei capitoli sicuramente più positivi della storia dell'oncologia e ha insegnato molto sul potere della prevenzione e della diagnosi precoce. Quello infatti della mammella è una delle neoplasie che offre le più alte possibilità di guarigione e, se identificata in tempo utile e naturalmente affrontata anche con le cure adeguate, può essere superata con successo nella quasi totalità dei casi. La formula la conosciamo tutte, semplice, l'abbiamo sentita ripetere tante volte: più il tumore è individuato in fase iniziale, più probabilità ci sono di affrontarlo con terapie che saranno ben tollerate e anche sconfiggerlo. Ecco allora che è importante conoscere quali sono le situazioni di malattia per programmare meglio le strategie di difesa e poi anche conoscere quegli strumenti di controllo. Penso alle visite specialistiche, agli esami come eco e mammografia, che diventano alleati, no? Con cui è bene prendere confidenza. Fare tutto ciò è possibile, si deve fare per tutelare la salute e io credo che sia proprio un atto d'amore che ogni donna deve compiere verso se stessa e verso le persone che ama. Il primo passo però naturalmente è essere ben informate e la puntata di oggi, con l'aiuto di tanti ospiti e soprattutto con l'aiuto di voi da casa che potete intervenire con le vostre domande per avere un chiarimento, con le vostre storie per dare il vostro contributo, ha proprio questo obiettivo, perché il primo strumento per affrontare un problema, lo sappiamo tutti, è la conoscenza. Vi ripeto il numero verde 824 0024. In studio con me ho la dottoressa Giovanna Gatti, senologa e presidente di Europa Donna, un movimento d'opinione sul tumore al seno presente in 41 paesi, fondato da Umberto Veronesi, quindi qua in un doppio ruolo. Buongiorno e bentornata. Buongiorno. Abbiamo qua in studio Luisa Morandini, è una donna che come tante di noi il tumore al seno l'ha incontrato, l'ha affrontato e l'ha vinto e ha pensato di condividere la sua storia raccontandola in un film documentario di cui abbiamo sentito un breve estratto proprio in apertura e che useremo proprio come guida, come fil rouge, come spunto di riflessione nel corso della puntata di oggi. Complimenti. Buongiorno, grazie. Qui in studio però abbiamo anche la dottoressa Claudia Borreani, che è responsabile dell'unità di psicologia dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Buongiorno. Buongiorno. Una figura molto importante nell'equipe di specialisti che aiutano la donna ad affrontare questa malattia che abbiamo visto e lo sappiamo dal racconto, segna il corpo, la mente, segna il cuore, quindi le donne hanno bisogno di essere aiutate, supportate anche per, certo, così, per prendere coraggio. Accanto al percorso di cura, delle cure mediche, c'è anche un percorso psicologico in cui la donna deve riuscire a integrare questo evento che all'inizio è un evento difficile, a riuscire ad integrarlo all'interno della propria vita, del proprio quotidiano, utilizzando tutte le risorse che ha e che talvolta non sa di avere. Ma in linea con noi abbiamo un grande esperto che ci darà sicuramente una mano. Io sono davvero molto felice di averlo in linea, è il professor Aaron Goldirsch, direttore del Dipartimento di Medicina dello IEO, l'Istituto Europeo di Oncologia di Milano. Professore, buongiorno. Buongiorno. Professore, inizierei subito da lei. Oggi vogliamo rivolgerci a tre tipi di donne, tre situazioni diverse che io credo occorra subito differenziare per ciascuna dare delle indicazioni precise. Noi vogliamo rivolgerci alle donne che hanno sentito solo parlare di tumore al seno, magari attraverso i racconti di altre donne o dai giornali o perché hanno avuto un caso in famiglia o attraverso le campagne di informazione. Queste donne sanno che potrebbe capitare anche a loro di incontrare il tumore al seno, hanno paura, molto probabilmente si controllano, ma a volte sono anche un po' confuse. Professor Goldirsch, a loro quale indicazione diamo oggi? Ma ha fatto molto bene a distinguere queste tre popolazioni, perché per ognuna delle persone al mondo possiamo trovare un collocamento dentro in una popolazione e facendo parte di questa popolazione può identificarsi con vari scenari, varie situazioni. La donna che non ha avuto nessun elemento da pensare che possa avere un tumore al seno è una donna che deve essere informata per quel che concerne le possibilità di conoscere il proprio seno, di aver confidenza, come ha detto giustamente all'inizio nell'introduzione, aver confidenza con l'informazione. E l'informazione è molte volte fuorviante. Per esempio, se per caso una donna sente un nodulo alla mammella, non è per forza un tumore quello che sente, può essere benissimo una banale cisti o qualcosa di veramente molto innocuo, perché il seno cambia durante la vita, ovviamente. Certo. Per cui, a mio modo di vedere, la cosa più importante è avere prima di tutto confidenza col proprio corpo e magari avere una persona di fiducia alla quale si rivolge in un caso di dubbio, che senza paura può esprimere un suo dubbio e eventualmente anche il suo pensiero più dello scenario peggiore che potrebbe capitare e discuterne tranquillamente. Certo. Per poter affrontare questo tipo di ritrovamento. Questa è la raccomandazione. Grazie professore, ma io vorrei parlare anche alle donne che, come Luisa, che è qui in studio con noi, il tumore al seno l'hanno incontrato e superato, non sono più malate, ma sicuramente la malattia le ha segnate. Professor Goldirsch. Certo, questa è una popolazione che ha avuto già un'esperienza sul proprio corpo di un tradimento di una parte delle cellule del loro seno che ha sviluppato una struttura che non doveva essere lì. E questa struttura è stata individuata, è stata trattata, il patologo ha fatto un identikit di questo organo che è cresciuto, che si chiama, noi chiamiamo tumore per semplicità, e in base a questo è stata confezionata una terapia adeguata per poter ridurre la probabilità di ricaduta. Per cui anche lì un percorso che va affrontato con delle persone con le quali si discute su il procedimento, sapendo che la guarigione vuol dire soltanto essere incerti del proprio futuro, perché questa è la verità dei nostri di noi mortali. È vero, professore. Il terzo gruppo a cui vogliamo rivolgerci è rappresentato da quelle donne che il tumore l'hanno incontrato, affrontato, ma se lo sono trovate nuovamente davanti e hanno dovuto, stanno accettando di vivere con lui, no? Questo tumore diventa come una sorta di malattia cronica, un compagno di vita con cui si deve fare i conti. Professore, questo per certi versi è, o forse è un progresso della medicina. Un tempo questo non era possibile, questo terzo gruppo di donne forse non sarebbe esistito, sbaglio? Esisteva sempre, perché molte malattie croniche, anche della mammella, sono delle malattie ad andamento lento. Oggi ovviamente la popolazione delle persone che vivono con la malattia è aumentata moltissimo, perché ci sono molti mezzi che tengono a bada, che controllano la progressione della malattia, lasciandola quiescente per molto tempo. Infatti il primo punto è quello che si dice a ogni persona che ha una malattia cronica, che c'è un buon rischio di vivere a lungo. Sì. E questo incide un po' sulla incertezza del proprio futuro, di non vedersi come un ammalato terminale, ma di vedersi come una persona che deve continuare una vita normale malgrado la presenza della malattia. Abbiamo Massimo che ci chiama da Milano, 824 0024. Massimo, buongiorno. Buongiorno, grazie mille dell'accesso alla trasmissione. Mi sentite? Noi la sentiamo molto bene, Massimo. Ah, perfetto, che ho un eco nella mia auricolare, però non... Sì. È importante che non ce l'avete anche voi. No, possiamo parlare, Massimo. Allora, io ho questa domanda. Ho una compagna che ha un seno fibrocistico, 42 anni, e secondo la sua dottoressa non ha avuto nessun cedimento, anzi è sempre bello tonico, e lei ha un dolore molto forte al seno durante il periodo dell'ovulazione fino a tutto il ciclo mestruale. Sì. Questa è una cosa che ormai va avanti da alcuni mesi. Ha fatto diverse ricerche per quanto riguarda la tiroide, la prolattina, per cui un'eventuale scompenso ormonale, però l'esito è negativo, tarda la mammografia prenotata e lei è veramente in subbuglio. Per cui... Massimo, io chiederei aiuto alla dottoressa Gatti, che come senologa sicuramente questi problemi, no? Queste paure delle sì. donne le ogni giorno, e come diceva il professor Goldrich, bisogna avere, che ciascuna donna abbia una persona di riferimento a cui alla quale chiedere, poter raccontare. Sì. In verità il dolore al seno in alcune fasi della vita è assolutamente normale, male, perché dipende dal fatto che il seno è un organo vivo e quindi risponde ai livelli di ormoni. Però bisogna avere una figura che raccolga la nostra ansia, possibilmente una figura di tipo medico che ci possa aiutare anche a scegliere l'esame giusto per l'età giusta, perché il dolore al seno sappiamo essere una cosa benigna, però questo non toglie che ogni donna debba controllarsi con l'esame giusto. A 42 anni, per esempio, immagino che la signora abbia fatto già una mammografia, immagino che faccia l'ecografia mammaria e immagino che il suo medico di medicina generale provveda a consigliarla ed eventualmente a visitarla con una visita senologica. Abbiamo sentito dalle nostre donne, che appunto abbiamo, le testimonianze sono state raccolte da Luisa Morandini che è in studio con me, alcune hanno descritto, è iniziato con un nodulo, ho sentito un nodulo, altre il dolore. Luisa, tu come hai iniziato? Come sei venuta a conoscenza? Ma anche per rifare un riferimento anche a Massimo che ha appena telefonato, io ho cominciato a fare i controlli di routine ogni 2 anni, sui 40 anni se non mi ricordo male, e avevo un seno fibrocistico, per cui da tenere sotto controllo, a quello che mi avevano detto. cosa che ho fatto regolarmente, ho alternato mammografia ed ecografia con la regolarità che mi avevano consigliato, e al dicembre del 2006 mi avevano detto che la situazione era tranquilla. 4 mesi dopo si è presentato questo tumore che era di tutt'altro tipo, di tutt'altra origine, che non c'entrava niente con le calcificazioni o con le cisti che sembravo avere. Io ribadisco che, anche raccogliendo tutte le testimonianze delle altre donne amiche che ho intervistato, è veramente fondamentale che ci si conosca e che si ponga attenzione ad ogni modifica. Possono essere delle modifiche date dall'età, date da un momento particolare, però ogni cosa, chi meglio di noi la può, certo, vedere e sentire. Poi ci si arriva, non è obbligatorio fiondarsi ogni volta a fare una mammografia o un'ecografia, perché anche gli eccessi a quanto pare fanno peggio forse che non. Però avere una persona che ti conosce, che ti può chiedere, tranquillizzare o no, o dirti no, in questo caso è meglio che fai un controllo. Dottoressa Borreani, sia il professor Goldirch che dottoressa Gatti, che soprattutto anche Luisa, ci sottolineano l'importanza della conoscenza del proprio corpo, stare bene con il proprio corpo, amarlo, prendersene cura. Certo. Di fronte ad un tumore alla mammella, come in questo caso, la donna arriva a contatto con qualche cosa che è dentro di sé, ha quasi paura a toccarsi, certo, a sfiorarsi. Certo. Quanto è importante recuperare questa dimensione? Beh, la dimensione della familiarità col proprio corpo, soprattutto in questi tumori che interessano delle zone che sono particolarmente sensibili e importanti, è legato a tutta la dimensione della sessualità, è assolutamente importante ed è da favorire in tutto questo percorso. Un continuo ritorno a risentire il proprio corpo. Tante volte ho ascoltato donne che mi hanno detto: io dal momento in cui ho saputo di avere un tumore io non ho più toccato il seno, non l'ho più guardato, e quindi questo aumenta ancora di più la distanza tra, certo, sé e il proprio corpo in questo momento. Dottoressa Gatti? Sì, conoscere il corpo è importantissimo. Dobbiamo tener conto del fatto che molte donne in realtà non praticano l'autopalpazione perché ne hanno paura. Sì. E questo è da tenere in considerazione, altrimenti andiamo sul poco realistico. Allora, se hai paura ad avere una palpazione fatta da te perché hai paura di trovarti qualcosa, chiedi a qualcun altro. È normalissimo, e parlo da senologa, che per esempio ci siano donne medico, e io faccio parte di questo gruppo, che abbiano difficoltà ad autopalparsi. Non si fa altro che chiedere a una collega. Chiediamo aiuto. Professor Goldrich, ma il tumore al seno cresce così rapidamente? Perché prendo spunto dalla storia che ci ha raccontato Luisa, no? Ci sono donne che stanno assolutamente bene. Luisa, tu? Stavo benissimo. Fanno controlli regolari. In un giorno all'improvviso scoprono di avere un tumore. Questo porta molte donne a dire: beh, cosa servono i controlli, no? Perché sotto sotto si pensa che chi si controlla eviti il rischio. In realtà sappiamo che il controllo serve per individuare il tumore nelle fasi iniziali, nel caso si manifestasse. Ma professore, questa è un po' una zona in cui ciascuna di noi donne se la racconta un po'. A mio modo di vedere c'è molto, molta confusione su questo elemento di crescita lenta o in un tempo prevedibile del tumore. Il tumore può crescere effettivamente in maniera molto lenta e riesce a essere più soggetto a una diagnosi precoce mentre è piccolo. Ci sono dei tumori però che non hanno letto il libro del tumore lento e crescono rapidamente. Sì. E questi molte volte vengono diagnosticati da un giorno all'altro. Il giorno prima non c'era niente, o addirittura la settimana prima c'era un esame senologico normale e la settimana più tardi c'è qualcosa che è apparso nel frattempo. Questo nella biologia della malattia esiste. Per cui smantellare questo tipo di pregiudizio che bisogna aver paura perché non si è fatto la cosa giusta quando si è sentito un tumore o un nodulo, sì, è qualcosa di importante come bagaglio informativo da portare con sé, perché a mio modo di vedere va senz'altro mistificata la questione del il tumore cresce sempre lentamente e attende di essere diagnosticato, certo, precocemente. Professore, di questo parleremo, seguiremo le nostre donne che sono state intervistate da Luisa Morandini nel momento della diagnosi, l'intervento, la paura della chemio, della radio, la paura di perdere i capelli, la difficoltà di comunicarlo ai familiari. La famiglia è un supporto, diventa invece qualcosa che ancora più che ti rende difficile superare il tuo problema. Siamo tornati insieme. Allora, devo fare una precisazione. Ben due ascoltatori mi dicono: perché lo chiamate tumore al seno quando in realtà il seno è lo spazio tra le due mammelle? Mentre, allora, dato che mi viene addirittura uno da un medico e l'altro, allora come lo vogliamo chiamare? Possiamo, Luisa, decidi tu, tu che l'hai avuto, come lo vogliamo chiamare? Personalmente, scusami, devo dire che per quel che riguarda me e la maggior parte delle donne, lo sappiamo benissimo che è giusto dire il tumore al seno, alla mammella e non al seno. Ecco. Però la mammella di solito nella nostra storia fa venire in mente le mucche, l'allattamento. Ecco, allora, non siamo, tanto per rispondere ai nostri due ascoltatori, cioè, che ringrazio, che si sono appunto preoccupati di inviare un messaggio con questa puntualizzazione, anche questo aiuta a fare informazione. E ci sono dei messaggi che vorrei leggermi prima di andare a sentire il momento della diagnosi, quanto è faticoso, perché lì si può leggere, no, dalle storie delle donne in diversi modi e lo sentiremo, ma a che giusto iniziare la mammografia? Ci scrive Roberta, 30 anni, da Bergamo. Professor Goldirch. L'età da dove si inizia di fare i controlli è dipendente molte volte dalla persona, dalla sua storia familiare, dal suo grado di attenzione al proprio seno e dal grado di incertezza che ha. In generale sulla popolazione si può cominciare al di sopra i 40 anni di età, ma ovviamente ci sono delle persone che hanno per esempio una familiarità molto forte e molte persone magari giovani in famiglia dove hanno bisogno di chiarimento diagnostico magari anche prima, per cui anche lì non farei qualcosa di buono per tutta la popolazione, ma direi se esiste un quesito preciso di eventualmente discuterne con un professionista. Un nodulo deve essere del seno, mi spiace, usano questo seno, deve essere fluttuante oppure può essere anche come una ghiandola attaccata al costato, ci scrive Cristina. Dottoressa Gatti. Dando per scontato che ha ragione il professor Goldirch e un nodulo può essere benigno, comunque la risposta può essere data solo da chi visita. Allora, molte ascoltatrici mi scrivono il problema sono i tempi. Ad esempio, un'ascoltatrice dice: fare una mammografia a Roma significa aspettare minimo 6 mesi, privatamente è troppo caro, ho 40 anni, ne ho fatto una 2 anni fa, devo farne una subito? Ci scrive. Luisa, a te com'è andata? Ma a me è andata che io seguivo lo screening del Comune di Milano, quindi mi prenotavano loro la mammografia, mi arrivava la lettera e la facevo. Adesso che sono nei 5 anni del cosiddetto follow up, io vado all'Istituto dei Tumori di Via Venezian e c'è un programma già prestabilito, per cui non ho questo problema delle visite. Dottoressa Gatti, come Europa Donna, un'Italia macchia di leopardo anche come tempi? Non si può fare io nulla? Io sono abbastanza positiva sulla qualità della sanità italiana e anche sdrammatizzo un po' la questione dei tempi. In realtà il medico di medicina generale ha gli strumenti per agevolare gli esami quando esista un sospetto. Il punto è sapere che il medico di medicina generale ci può aiutare in questo. Quindi questa è già un'altra informazione, sì, che si aggiunge. Chiedo a Filippa Oreggi di mandarci il file, ascoltiamo, stiamo seguendo appunto questo percorso che ha fatto Luisa, che hanno fatto molte di voi, sul momento, la reazione al momento della diagnosi, la sentiamo. E a quel punto sono arrivata a casa e avevo il panico, perché vabbè, in quel momento vorresti eliminare tutto subito, perché chiaramente dici prima lo tolgo meglio è. Al primo momento ero disperata e mi sono detta: cosa ci guadagno? La paura irrazionalmente c'è comunque, perché quando mi sono sentita dire calcificazioni stellate, sapendo che cos'erano, ho detto va bene, ok, adesso le affrontiamo. Io mi sono sentita come se mi fosse capitato addosso un tir quando mi hanno detto che insomma, cominciavo sta strada. La notizia è stata comunque un po' scioccante, anche perché nella convinzione che tutti abbiamo di intoccabilità e di queste cose qua capitano sempre agli altri. Chi se l'aspettava? Non dava sintomi, stavo benissimo e questo stava lavorando, fra 6 mesi sarebbe stato tardi. Quando te lo senti, sai già che non hai alternativa, cioè lo devi affrontare. Per cui tutto quello che viene si fa. C'è un bastardo che ti è saltato addosso e che ti sta facendo del male. Paura o coraggio a questo punto? Lo chiedo poi a voi donne in studio, ma al professor Goldirch volevo chiedere una paura motivata, perché professore io non vorrei leggere anche l'altra faccia della medaglia, di tumore si guarisce ma di tumore si muore ancora oggi. Assolutamente, infatti una notizia cattiva è una notizia cattiva e di tumori si muore, per cui non si vorrebbe mai banalizzare e a mio modo di vedere l'affrontare il problema è attraverso la confidenza e l'informazione, perché anche qua esiste la maniera ed esiste la maniera giusta e sbagliata di comunicare una notizia cattiva in linea generale. A mio modo di vedere, dalla mia esperienza, so che dando più informazione su quello che dovrebbe capitare, su come si affronta realmente, concretamente la diagnosi, l'inizio della terapia, le possibilità del trattamento poi e magari ripetendolo 2 o 3 volte in discussione, questo per molte persone aiuta a diventare più concreti e la concretezza riduce la paura. Prima di sentire abbiamo Stefania, Raffaella, Vincenzo, Luisa. Vorrei solo aggiungere una cosa, sicuramente per me e per tutte le donne con cui ho parlato è fondamentale avere il maggior numero possibile di nozioni, ma è anche fondamentale il come, cioè il rapporto tra un paziente e un medico è sempre un rapporto molto delicato. Quando una è un paziente, ma io parlo anche degli uomini per altri tumori, ha un tumore, è un paziente particolarmente fragile, particolarmente spaventato, per cui credo che i medici dovrebbero avere particolare attenzione. Sì, soprattutto nel momento della diagnosi c'è la fragilità maggiore, perché le parole delle donne l'hanno espresso benissimo, è uno shock e lo shock è più grande quanto più uno era lontano da questo pensiero nella propria vita, aveva appena magari fatto gli esami, quindi un evento che arriva così nella vita improvvisamente crea una frattura nella vita, sembra che ci sia un prima e poi non si riesce a vedere un dopo, e questa è una reazione normale, rientra nell'ambito delle reazioni normali agli eventi traumatici. A un tempo, passato questo tempo, si cominciano a raccogliere le informazioni ed è in questa fase che è una relazione forte con un medico che ti dice anche che cosa devi fare, che cosa ti può aiutare, diventa terapeutica anche dal punto di vista psicologico. Ti capita il medico che ti capita, dottoressa Gatti? Se il medico non ci piace si può cambiare, vero? Sì, certo. È importante che uno possa fare questo. Antonella ci scrive, volevo solo ringraziare, le scrive dello IEO, ma di esistere, perché loro non solo curano bene, ma sorridono, mi guardano, mi danno sicurezza, e dall'infermiera che mi fa un prelievo al professore che mi dà la mano vuol dire tanto, mi fanno sentire vive e mi danno la forza di combatterlo il tumore al seno. È importantissimo, lo sappiamo. Grazie. Il contatto medico-paziente, e poi che anche la donna deve mettere del suo, Luisa. Sicuramente la donna spesso scopre delle forze, delle energie, delle capacità che non sapeva nemmeno di avere. Per cui può addirittura diventare un'esperienza che si trasforma in un'esperienza positiva. Certo, è facile dirlo dopo. Andiamo nella provincia di Roma, ci chiama Stefania. Buongiorno Stefania. Salve, buongiorno a tutti. Scusate l'emozione, ma l'argomento è particolarmente caro. Sì. Ho 35 anni e ho perso mia madre con un tumore al seno, e anche la sorella di mia madre aveva lo stesso problema, tumore. E niente, vabbè, dall'età di 30 anni la mia sonologa mi obbliga quasi a fare delle mammografie, ecografie, diciamo, annualmente, proprio per prevenire e comunque tenere sotto controllo la situazione, avendo il seno abbastanza grande e anche con predisposizioni a mastopatie. E niente, io leggevo, informandomi su questa cosa, delle analisi geniche che si fanno, quindi dell'esistenza di un gene che causa appunto le metastasi al seno. Sì. E sentivo di persone che preventivamente, avendo questo gene attivo o comunque presente, decidevano di togliere il seno in maniera definitiva. Sì. Voleva saperne di più, giustamente, volevo Stefania. Di più, insomma, sulla ricerca di certo. questi geni, della loro validità e del fatto di poter eliminare il seno in maniera così definitiva solo per... Grazie Stefania, per ci facciamo dare una mano dalla dottoressa Gatti e dal professor Goldirsch. Dottoressa Gatti. I casi di mutazione genica responsabile di alta familiarità per tumore al seno sono il 5% globale dei casi di tumore al seno. In ogni caso i senologi indicano, quando necessario, l'opportunità di approfondimenti anche genetici. Non è detto che la mastectomia bilaterale sia la soluzione quando c'è una mutazione genica. Professore? Ma è un argomento molto difficile, perché la consulenza genetica non vuol dire fare l'esame genetico, vuol dire discutere con un genetista, un medico, un psicologo del risultato di un eventuale esame genetico fatto, e in base a questo decidere se fare l'esame o no. Per cui è una consulenza piuttosto laboriosa, e aiuta di solito alla persona che si rivolge a un consultore genetico a affrontare il problema di una eventuale malattia che è determinata da un gene di predisposizione. Per cui è un argomento che va affrontato, a mio modo di vedere, anche lì in maniera individuale con un professionista, e ci sono nei vari centri grandi di riferimento ci sono dei consultori, certo. Siamo qui e Raffaella da Bergamo è in linea con noi, 824-0024. Buongiorno Raffaella. Sì, buongiorno. Io sono stata operata di cancro lobulare infiltrante 2 anni fa. Due anni fa, Raffaella? 2 anni fa, sì. Ho 50 anni. Avevo da pochi mesi fatto una mammografia, una ecografia, non mi avevano riscontrato nulla. Poi improvvisamente il nodulo e l'intervento. Niente, volevo chiedere l'aspetto oncologico e l'aspetto senologico. Ho come la sensazione di aver capito, da quello che mi hanno detto, che il tumore al seno sia uno di quei tumori che, nonostante passi il tempo, ci sia sempre la possibilità che recidivi. Ecco. Sì. E invece l'aspetto oncologico è che, se passa un po' di tempo, puoi essere più tranquilla. Allora, professor Goldirsch, può dare lei una spiegazione a Raffaella? Come ho capito, si trattava di un carcinoma lobulare, che è un tipo particolare di tumore che di solito la diagnosi è molto difficoltosa, perché assomiglia molto al tessuto normale come tipo di tumore. Di solito è molto ormonoresponsivo, cioè risponde molto bene agli antiormoni, per cui il trattamento antiormonale che si dà per molti anni riduce sia la recidiva, ma specialmente anche riduce la insorgenza di nuovi tumori dello stesso tipo nel tessuto mammario rimasto. Per cui la strategia precauzionale e profilattica in questo caso va discussa in base alle caratteristiche specifiche del tumore, va un po' personalizzato, va un po' tutto. Sempre Luisa, quando è arrivata la diagnosi, poi l'intervento, poi l'attesa dell'esame istologico e poi l'attesa di sapere che cure avrei dovuto fare. E qui vorrei aprire una piccolissima parentesi. Nella prima fase, la primissima fase di operazione, di visite, c'è come un'urgenza e si è molto impegnati anche con il tempo, proprio materialmente, si ha mille cose da fare. dopo le attese sono lunghissime, sono dolorosissime, sono molto, spaventano molto. Se si poteva, io invito, dove è possibile, accorciarle, di accorciarle al massimo, perché anche dopo nel follow up e nei controlli non è vero che siccome è passato un anno sei meno spaventata dei primissimi controlli. Punto. Parlando invece delle cure, la cosa che emerge sicuramente più di tutte è che la chemioterapia, per quanto personalizzata, per quanto meno invasiva di una volta, ce ne sono addirittura alcune che fanno pochi danni collaterali, tra virgolette, fa molta, molta paura. Sentiamo le donne, le abbiamo proprio così preriprese, lo ripeto perché il film documentario di Luisa Morandini è davvero... consigliate da vedere, sta girando un po' in Italia. Speriamo perché aiuta le donne a, e poi anche perché è una storia raccontata da chi il tumore l'ha avuto, no? L'ha vissuto, se l'è ha fatto un pezzo della sua vita. Adesso andiamo a sentire la paura delle donne, la chemio. Sentiamo. Terrorizza perché non sai, cioè sai, beh, intanto pensi che la chemioterapia sia una cosa unica, che non è. Ci sono tanti tipi di chemioterapie che sono collegati al tipo di tumore che hai, perché sono tanti farmaci diversi, sono mix diversi, a frequenze diverse. È un mondo la chemioterapia. L'oncologo mi ha fatto un po' scegliere tra una cura, la cura più efficace, molto forte, particolare per il cancro al seno, che faceva perdere totalmente i capelli, e se questo doveva essere per me un terribile problema, visto che io avevo una lunga treccia, ce n'era una che non li faceva perdere ma che era meno efficace. Non ho avuto nessun dubbio a dire di fare quella più efficace. La prima chemio ero un po' sbandata, era un po' così, però avevo un po' di giramenti di testa, però mi sono alzata il giorno dopo, stavo benissimo. So, che bello, forse siccome ti dicono, guardi, gli effetti collaterali non tutti ce li hanno. Quindi ho detto, forse io non avrò niente. Invece dopo 2 giorni mi sono alzata una mattina che ero... dolori tremendi dappertutto. Io ho continuato a lavorare perché continuando a lavorare mi sentivo meno malata. Sono stati 2 o 3 giorni veramente faticosi, lì proprio una roba così. Allora, sempre per la solita logica che è meglio evitare di soffrire troppo a lungo, Giulia mi ha rasata e mi sono fatta delle bandanine di tutti i colori fantastiche per 3 mesi. E poi sono ricresciuti. La prima reazione è stata quella, io non la faccio. Però, avendo 2 bambini, una responsabilità non solo verso me stessa, sono stata costretta. L'ho presa molto molto male perché è troppo invasiva, soltanto la parola. La cosa principale è che devi reagire, ma devi reagire, la devi ignorare. Non è facile, perché non è facile. Bisogna reagire, ma prendendoti cura soprattutto di te. Allora, professore, noi in questa chiacchierata, in questa che è stata faticosa per noi donne, qua presenti un po' in studio, a trovare un po' i termini giusti, a cercare di parlare di vita, di sopravvivenza, ma anche di morte, perché come i dati lo dicono, no? Rimane il problema della chemio, che fa comunque paura, le donne hanno paura degli effetti. Molte donne si raccontano in questo film documentario il problema dei capelli, il rapporto con la parrucca. Ci sono anche delle scene divertenti. Una donna dice: la parrucca me la mettevo, poi arrivata a casa, wow, la facevo volare e poi la ricercavo affannosamente quando suonavano alla porta. Professore, in chiusura, chemio, c'è qualcosa di meno invasivo, è sempre necessaria. Radioterapia, sono 2 alternative, sono sono tra loro complementari. Che cosa si può dire? Lo so che le chiedo in 1 minuto, ma questi un po' sono i tempi della radio. Ma il pacchetto di terapie che si può offrire, si può negoziare con il paziente, dico negoziare perché si tratta di effettivamente discutere ogni particolare, è composto non soltanto della chemioterapia, anzi da noi sicuramente la minoranza dei pazienti ricevono una chemioterapia, parlo della situazione precauzionale dove si dà la terapia per evitare la recidiva e va anche lì misurata secondo le caratteristiche della malattia, la malattia più frequente è ormono responsiva, per cui la componente principale del trattamento in questi casi è la terapia ormonale, che non è banale come effetti collaterali, ma viene vista in maniera meno violenta che non la chemioterapia, che porta tossicità pesante all'inizio. Poi c'è la terapia biologica, la terapia intelligente, cioè la terapia mirata contro dei bersagli specifici che il patologo dice questo tipo di tumore ce l'ha, per cui potete usare questo farmaco. Sì. Per cui il confezionamento del trattamento è qualcosa che anche qua viene fatto in maniera individuale e va spiegata in maniera individuale, prendendosi del tempo, cioè non entrando sempre nel momento del panico, della diagnosi, della comunicazione della diagnosi, ma lasciandosi del tempo per negoziare gli elementi, per dare l'informazione e aumentare la confidenza dell'informazione. Per cui anche lì bisogna chiedere più informazione. È veramente necessaria la chemioterapia, visto che viene data a fondo perduto? Sì. Per motivi precauzionali. Quindi non dobbiamo avere paura di chiedere. Io vorrei, siamo proprio in chiusura, pochi secondi per salutare, approfitto delle mie ospiti qua in studio, Luisa, un messaggio, avrei voluto far sentire il messaggio conclusivo, il dopo, magari se ci dai l'autorizzazione ne mettiamo un piccolo estratto sul nostro sito, sull'home page, 3 secondi. Io faccio salutare te. Saluto dicendo che la mia vita è cambiata, è segnata da questa malattia, ma è stata segnata anche in positivo, perché ho capito tante cose della vita e sono contenta che mi sia accaduto. Allora, vi saluto con le parole di Luisa, che credo rappresentino tante donne che come lei, che il tumore l'hanno incontrato, affrontato e superato, no? C'è una buona percentuale di donne che può dire così. Saluto molto il professor, molto, volevo dire ringrazio molto, ma lo saluto anche tanto il professor Goldirch, che è stato con noi, la dottoressa Gatti, vi ricordo il sito di Europa Donna, la nostra psicologa che ci ha aiutato, la dottoressa Borreani dell'Istituto Nazionale dei Tumori. Grazie per averci dato una mano a fare informazione. Noi ci sentiamo domani dopo il GR delle 11:00.